Cancellato i miei dolori, non fammi dire, avvelenando il mio cuore, così fragile me, hai ritrovato le mie grida, portandole indietro, ritorturando la coscienza, e tradendola ancora. Dai guai, è tanto il mio corpo vomita, salpina, e poi si sta.